tentata in vano con il tuo ricordo del mio cuore. E c'è chi mi dice che non sei felice, donne sempre grande quest'amore. Ti farò sognare su questo cuore che invoca te. Ti farò scordare il tuo dolore. Ritorna a me. Vivere vicino a te, sempre vicino a te, carezzarti con amore, sognare sul tuo cuore, respirare quell'aria che respiri, puoi gioire vedendoti gioire, vivere vicino a te, sempre vicino a te. Tra le tue braccia amore strette sul tuo cuore, sognerei con te. Non aver timore, mi perdona il cuore, ridimi dicendomi di sì. Sola, sempre sola, senza una parola, tu come puoi vivere così? Se il cielo è blu, la prima in fiore, ritorna amore. Solamente tu non torni più su questo cuore. Respirare quell'aria che respiri e gioire vedendoti gioire, vivere vicino a te, sempre vicino a te, tra le tue braccia amore strette sul tuo cuore sognerei.